Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, spero che non abbiate fatto ingestione di uova, di cioccolato. Franco Biantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Insomma, è stato un weekend pasquale che ci ha lasciato molti temi, alcuni divertenti, altri meno, e comunque vogliamo parlarne con voi, come sempre, come ogni giorno. 800 24 00 24, aspettando questa sera la partitissima Bayern Monaco Juventus. Chi vince? Me lo dite voi? Intanto il tema del sabato, la vittoria, secondo me chiara. Poi ci sono state un sacco di proteste interiste sull'arbitraggio di Rizzoli. Se vogliamo sbriciolare la partita, come al solito, facciamolo pure. Secondo, io non ho visto nulla di strano, di perverso. Ho visto una Juventus che ha dominato fisicamente soprattutto l'Inter e che ha meritato di vincere questa partita. Poi c'è stato quel fallo di Cambiasso, mi è capitato anche di discuterne in un autogrill, pensate un po', con un interista che diceva: ma no, al massimo ammonizione. Ammonizione? Stiamo scherzando? Mi sembra uno scherzo anche una sola giornata di squalifica. Sì, no, sono andato a scusarmi in campo, prima di tutto, perché ero visto che era a terra dolorante tanto, e poi in spogliatoio, più che a scusarmi, perché già ero scusato, sono andato ad accertarmi un po' per capire se stava meglio, perché non ero contento del fatto che lui possa avere un problema. Vediamo Conte in attesa del fischio finale che arriva adesso con un fallo bruttissimo. Un fallo bruttissimo di Cambiasso. Rosso a Cambiasso. Sì, Cambiasso non è un giocatore cattivo, però ha fatto un fallo molto cattivo su Giovinco, rischiava di spezzargli una caviglia. Poi l'atteggiamento di Cambiasso, da giocatore, da uomo intelligente qual è stato quello che avete visto. Conte se l'è portato via sotto il braccio per evitare ulteriori conseguenze. Altro argomento che ci ha lasciato il weekend, mentre è vero, per rispondere ad un messaggio che Palermo ha rilanciato nella lotta a salvezza per merito suo e per demerito degli altri, 800 24 00 24, in Inghilterra, e di questo parleremo dopo perché è un argomento interessante, è polverone assoluto su Di Canio, come al solito, adesso allenatore del Sunderland con dimissioni del numero 2 del club, che era Dave Miliband, cioè è stato ministro degli esteri del governo Brown. Ha detto: se c'è questo, io non ci sono più. And I don't want to talk about any more politics for one reason, because in here, if I'm not wrong, I'm not in a House of Parliament, I'm not a political person. I want to talk about only football. As I said yesterday, that those are the last few words that I'm talking about the situation. In 45 years I never had a problem with anyone, so that have to be enough forever. That Paolo Di Canio is an normal person that respect the rules like many others, million people in Italy and in England, so that have to be enough for speaks for me. Questo era Di Canio, che ha convocato conferenza stampa questa mattina alle 8, correggetemi se sbaglio, per la sua presentazione ufficiale, quindi alle 8, per chi voleva esserci, per l'appunto ha detto, come avete sentito: basta con la politica, non sto in Parlamento, faccio l'allenatore di calcio. Certo è che non si può lanciare il sasso oppure lanciare in alto la mano e poi tirarsi indietro e dire parlo solo di pallone, almeno secondo me. 800 24 00 24 è il numero verde. Abbiamo visto in questo weekend di Pasqua, anzi nel giorno di Pasqua, il Giro delle Fiandre, meravigliosa vittoria di Cancellara. Fabian Cancellara si volta dietro per festeggiare con la sua ammiraglia, per gettare anche uno sguardo a dove sono gli inseguitori, e non si vede nessuno. Da solo, nel suo modo. Fabian Cancellara alla Ronde van Vlaanderen, semplicemente eccezionale. Primo nel 2010, terzo nel 2011, l'anno scorso una caduta con la frattura della clavicola e oggi torna al successo, pienamente meritato. La fame di vittoria, questa è la caratteristica principale di un ciclista fantastico come Fabian Cancellara, perché bisogna saper pedalare con le gambe ma anche con la testa, Davide, come ci hai sempre insegnato, alla ricerca, vale a dire, anche delle motivazioni, no? Uno come Cancellara che ha vinto tutto. Allora, Luca su Twitter: Carlo, parliamo di tutto, però mi raccomando, niente moralismi su Sagan. Ma quali moralismi? Idolo assoluto Peter Sagan, no, non voglio fare il maschilista e quindi non voglio fare moralismi, però sinceramente quando vedo quella foto, quando ho visto le immagini e quando vedo quella foto sulla prima pagina della Gazzetta con quella manina allungata, beh, a me, viene da ridere, no? Dico, vabbè, perde da Cancellara, due che non si vogliono benissimo, e trova il modo di sdrammatizzare la cosa. Su, via. Peter Sagan, che poi anche ha chiesto scusa, dai. I sincerely apologize to Maya for what I did on the podium yesterday after the race. It was wrong of me and I don't thinking when I was up on the podium. Sincerely apologize, avete sentito, no? Sono sinceramente, chiedo sinceramente scusa, sono contrito per quella manina morta allungata laddove non si doveva fare. Allora, questa sera c'è anche Ancelotti contro il Barcellona a Parigi, una sfida che Mourinho guarderà con interesse, tanto gioca domani col Galatasaray. Si dice che Mourinho abbia inviato ad Ancelotti DVD e suggerimenti su come battere il Barça. Est-ce que ça vous a dérangé les filtrations qu'il y a eu, che semblerait que José Mourinho aurait envoyé des vidéos sur comment contrer le Barcelone? Je n'ai pas encore reçu cette information. Et alors, ma le match le demain, se Mourinho vuole donner a moi qualche information, je suis ici pour écouter, parce que Mourinho il a beaucoup d'expérience contro Barcelona, ma il n'est pas encore arrivé. Posto in ritardo, cosa ci volete fare? Fa schifo o non fa ridere? Ascoltatore, io non voglio far ridere, voglio parlare di sport con voi. 800 24 00 24 è il numero verde, quindi se volete siamo qui per parlare di ogni sport, dal ciclismo a Sagan, a Cancellara, al basket, al calcio, alla Juventus, al Barcellona, ai video che non sono arrivati, al fallo di Cambiasso, a quella giornata di squalifica, a quello che volete, compreso Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia, ma poi avremo una sorpresa. Questa è una grande partita in una competizione dove è bellissimo esserci ed è frutto del grandissimo lavoro che è stato fatto alla società dai ragazzi l'anno scorso. È sicuramente un sogno, perché sappiamo benissimo che ci troviamo a giocare questa competizione dopo tanti anni in cui c'è stata la nostra assenza. Sappiamo di avere un ruolo di outsider, sappiamo di affrontare sicuramente una tra le favorite alle vittorie finali come il Bayern Monaco, insieme sicuramente al Barcellona e Real Madrid, però sappiamo anche di non essere qui per caso, questo che sia chiaro, non veniamo sicuramente come vittime sacrificali qui. E sarà una grande partita quella di stasera all'Allianz Arena, una partita da seguire. Io farò il tifo per la Juventus, voi non lo so. 800 24 00 24, come sappiamo i gufi hanno diritto di cittadinanza nel nostro mondo, nel nostro calcio, gufi simpatici naturalmente, non gufi pieni di astio. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Io credo che l'Inter vincerà con la Juventus con due gol di Antonio Cassano. Scrivo? Scrivilo, ti do anche ti do tutto quello che vuoi. Come ci indovino spesso nel pronostico. No, vince, ma io 3-1, due gol li segnerà Cassano. Quanto vince l'Inter? 3-1. Vince 3-1 come all'andata. Allora io scrivo 3-1 come all'andata e doppietta di Cassano. convocati. Allora, non ditelo a nessuno, ma abbiamo fatto sequestrare Antonio Conte in un bagno dell'Allianz Arena per sottrarlo ai vari addetti stampa, alle rigide procedure dell'UEFA. Antonio Conte, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ha chiuso la porta? Assolutamente sì, ho controllato che nessuno ci stia ascoltando, ecco. Benissimo. È un favore che faccio, e a lei è tutta la 24. E lo so, io... Me lo segno, trattatemi bene. Sì, ma se lo segni pure, la trattiamo bene ogni volta, mi pare, no? Anche quando certe volte non lo meriterebbe. Non vorrà mica vincere anche lì, all'Allianz Arena, una volta che è uscito dal bagno. Vabbè, adesso che vado là a perdere, che facciamo? Ma ci mancherebbe altro. Noi andiamo per vincere, andiamo per fare un risultato importante, perché... Noi siamo la Juventus, abbiamo una grande rosa e puntiamo a fare qualcosa di straordinario. Ecco, puntiamo alla vittoria. Cioè, sì. Antonio Conte punta sempre a vincere, ci mancherebbe. Sì, Antonio Conte punta sempre a vincere, copia Madri Quagliarella, Vucinic in panchina e via, e si gioca. Esatto. Senta, ma quando, allora, mi tolgo una curiosità, ma quando ha scortato Cambiasso dopo quell'orrendo fallo su Giovinco, è perché voleva già fare amicizia con lui? Ma guarda, te lo dico subito, innanzitutto è stato un cesto che non è stato un bel cesto quello, perché Sebastiano, insomma, ha saltato la scuola anche per questo, perché sapete che lui va ancora a scuola, insomma, la maestra mi ha chiamato, mi ha detto Sebastiano è venuto a scuola, insomma, quindi è andato pure da scuola, e questa è una cosa prima che i bambini a scuola ci devono andare. Seconda cosa, poi Cambiasso probabilmente quel gesto l'ha fatto perché è un po' invidioso nei confronti di Antonio Conte, però doveva prendersela con me, non con Sebastiano, perché... Insomma, lui sapete che... No, testa, ho capito, però se vai... Scusa Antonio, ma se vai ad allenare l'Inter, fai bene, così non ci ascoltano, eh. Con lo sciacquone è perfetto, perché così se ci sono delle microspie le eludiamo. Certo. No, ma se vuoi andare ad allenare l'Inter, secondo me hai fatto un po' il paraculo e sei andato da uno dei leader dell'Inter. No, assolutamente no. L'ho fatto per proteggerlo, perché poi Cambiasso me l'ha detto il motivo, di vuole entrare, che lui è un po' invidioso, era un remore nei miei confronti. Lui è un po' invidioso che ho i capelli in testa, lui no, insomma, quindi io sono riuscito a fare il miracolo di Shampoo Conte, sono riuscito a farlo, gli ho detto Cambiasso, te lo presto pure Shampoo Conte, ma queste scene evitere, e poi non prendertela con i bambini, con Sebastiano, cioè prenditela magari con me, che sono più maturo, d'appronto anche, però insomma tutto chiuso, sono un professionista, allenerei qualsiasi squadra, questo lo dico, e certo, dall'Inter alla Viterbese. Dall'Inter alla Viterbese, basta che abbiano il grano. Ti chiedo ancora questo, il Bayern ha paura di Pirlo, e tu? Ma io dico ho paura del Bayern, mi dici? È questo il senso? No, di chi hai paura tra i giocatori del Bayern? Hai paura di qualcuno? Assolutamente no, noi non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo avere paura soltanto di noi stessi. Fare una grande prestazione, andare in campo e fare quello che sappiamo fare. Questo è quello che dico ai miei calciatori. Ogni domenica, ogni mercoledì. Senti Michele Negroni, sei meglio di Conte, posso dire. Michele sono Negroni degli autogol, l'allenatore. Ormai, no, ma voglio dire, secondo me sei meglio di Conte, perché io, cioè, tra te e lui mi mettessero le due voci, e di voci un pochino me ne intendo, io non saprei chi scegliere. addirittura sono andato a dare Conte... anche risposte diplomatiche come lui. No? Bravo, sei arrivato a dare risposte diplomatiche come fanno tutti, no? Esatto, sto diventando un po' un allenatore anch'io. Adesso impara a fare di cagno, va. Adesso se lo studiamo, allora se lo studiamo, magari vediamo di... Però diplomatico con Di Cagno non è tanto facile fare. No, quindi... con Di Cagno cosa vuoi fare diplomatico? Con Di Cagno si va giù duri, insomma. Si va giù duri, vabbè, allora ce lo studiamo, dai, ce lo studiamo e poi lo vediamo bene assieme, dai. Sì, e poi soprattutto ripassa Mourinho, perché l'anno prossimo dicono che torna. Io non ci credo, neanche se lo vedo, ma dicono che torna, secondo me va al Chelsea, ma comunque... Sì, anche per me è duro, però vabbè, noi intanto ce lo riguardiamo, ci teniamo pronti noi, dai. Bravo, grazie. Va bene, grazie te, Carlo, saluto a tutti. Ciao a Michele Negroni, vi sfido a dire che non è identico, eh? Abbiamo voluto scherzare un po', ma oggi, insomma, stiamo aspettando la partita e cosa dobbiamo fare? fare arrabbiarci come le Iene, come è stato peraltro sabato in diretta per quell'arbitraggio di Inter-Juventus che gli interisti non hanno digerito, dobbiamo arrabbiarci come le Iene magari per quella unica giornata di squalifica a Cambiasso. Secondo me era un intervento da 3 giornate di squalifica, ma è una valutazione personale, non sono né interista né juventino, sono uno che ha visto un fallo abbastanza criminale. Poi è chiaro che conoscendo Cambiasso è il primo ad essere pentito, però il pentimento postumo vale quel che vale, ma è più importante la carta del, insomma, la decisione del giudice sportivo. Quello non è un fallo da un turno di squalifica, a mio parere. Giuliano, Modena, 800 24 00 24, numero verde, poi Roberto da Milano. Dica, Giuliano. Io volevo intervenire dicendo che, pur essendo interista da diversi anni, da sempre, ritengo che in casi come questi, quando un club italiano gioca in una competizione europea, una competizione estera, soprattutto una squadra come la Juve, che è una nostra rivale storica, però annovera una metà della nazionale, insomma, si debba. Io sinceramente mi sento di fare Juve. Quindi un po' un invito che faccio a tutti. Sì, anch'io. Quindi non gufo. Io non gufo. Eh? No, io non gufo. Io invito tutti gli interisti a invece, nonostante tutto, e diciamo pure nonostante tutto, comunque a. Sarà dura. Sarà molto dura, ma tant'è. L'importante è che si rimanga nei limiti del lecito, del buon senso. Poi vale tutto, no? Il calcio è come il Palio di Siena, più o meno. Senta, ma visto che lei è un interista equilibrato, io continuo a prendermi un orrendi siete voi, il che è anche vero, perché ho definito orrendo il fallo di Cambiasso. Lei ha una definizione migliore? No, direi anzi che il fallo di Cambiasso, secondo me, doveva essere punito con forse anche in maniera più severa. D'altronde però abbiamo visto anche casi del genere in altre occasioni per squadre, sì, anche come la Juve. Sì, no, ma lasciamoli stare. Poi va bene una giornata di squalifica, ok, passa in cavalleria, però il fallo è stato, a mio parere, orrendo. Cioè, un altro aggettivo non mi viene in mente, ma credo che lo definirebbe in questo modo anche lo stesso Cambiasso, che poi si possono trovare delle giustificazioni, che sia entrato fuori tempo, che sia fuori condizione, che gli sia saltato poi possiamo girarci intorno finché volete. Io vedo quell'intervento e a me vengono i brividi, e se mi vengono i brividi lo definisco orrendo. Poi orrendo sarò io, va benissimo, è anche vero. Grazie Giuliano non gufo. Roberto da Milano, buongiorno, incompleto per la trasmissione, Carlo Genta. Grazie. No, gufo o non gufo? Gufo o non gufo? No, per no, la Juventus? Quanto lo dire anch'io, che mi auguro che vada avanti la Juve anche addirittura in finale. Ma lei perché squadra tiene? Milan. Ma siete un po' troppo buonisti, siete un po' troppo democristiani, qua. No, io sono sportivo e le squadre buone, belle, che giocano bene, io preferisco che vada avanti, insomma. No, ma anch'io, la Juventus merita, insomma. Io faccio il tifo per la Juventus questa sera perché rappresenta il calcio italiano, perché ha meritato fin qui, sì, esatto, di proseguire il suo cammino. Non ho niente contro di personale contro di loro, e dunque io spero che passino il turno, che secondo me è la prova del 9, l'esame di maturità. Questa sera l'ho scritto al ritorno a Torino, l'orale, e poi capiamo veramente quanto vale la Juventus, questa Juventus sul piano internazionale. Dunque, non gufi, battono gufi 2-0 per il momento. Francesco dalla provincia di Salerno. Sì. Dica. Vorrei sapere, io sono un tifoso del Napoli, però sportivo, quindi tifo io questa sera. E 3. Tipo io come squadra italiana, non vorrei sapere perché Mazzoleni e Riccioli sono contro il Napoli, sono razzisti contro il Napoli. Quando abita Mazzoleni e Riccioli, Mazzoleni ha danneggiato il Napoli e il Pescara, ma il Napoli ha giocato con Mazzoleni, arbitro, 5 volte, 4 sconfitte e un valigio, la Juve 5 vittorie, ma è assurdo, però bisogna essere parziali. Allora, Mazzoleni, ce l'ha con Mazzoleni, però tifa Juventus, stasera non arbitra Mazzoleni e quindi siamo tutti felici e contenti. Spero che non abbia sentito Mazzarri, perché sennò gli viene un'altra idea per un'altra volta. Questa volta c'era la storia dei nazionali in giro per il mondo, che evidentemente non erano solo per il Napoli. Mazzoleni può essere un'altra soluzione. Quanti punti ha rubato al Napoli? 5, 6, 10, 20, 40? Non ho capito bene. Pazienza, ci fermiamo e poi vi aspetto perché voglio parlare anche di Di Canio, voglio parlare di questo terremoto che sta succedendo oltre la Manica, perché è veramente così. 800 24 00 24, numero verde. Allora, teniamo il conto: gufi 0, non gufi 3 per il momento, per questa sera, per Bayern Juventus. A dopo. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. Tutti convocati. Senti, Mazzoleni, editori, sono contro il Napoli, sono razzisti contro il Napoli. Va bene così. 800 24 00 24, siete meravigliosi. Intanto Simone su Twitter: no, io gufo, per stasera ho lucidato anche il Trespolo e siamo 3-1. Donato invece: io tifo Juver. Fammi sentire ancora, cos'era? C'è sta, no? Io tifo Juve fino alla finale, sono un interista. Sarà vero questo messaggio di Donato su Twitter? 800 24 00 24 per parlare di quello che volete, mi sto divertendo da morire. Io, poi voi magari meno, se volete vi parlo di tattiche e strategie, di cosa può succedere stasera alla lavagna tattica che non si vede per radio in Bayern Monaco Juventus. No, guardo la partita serenamente, tifo Juve, poi domani ne parliamo. Alberto Milano, buongiorno. Eccomi qui, buongiorno. Allora, io sono orrendo, sì. Io lo dico, no, subito. Perché? Non so, no. Ma lo scrivono, cioè io dico che è orrendo. Orrendo è il fallo di Cambiasso, no, orrendo sarai tu, il che è vero, che posso fare? Va bene, non lo so, allora devi mettere un'immagine in video. Va bene, no. sarà fatto. Va bene, sono forse contro tendenza. Sì. Io tifo la squadra, cioè, io sono un interista, voglio dire, ma tifo per la Juve, ma gufo per i juventini, perché domani mattina se perdono, allora se vincono sono contento per la squadra, se perdono... prenderli per i fondelli mi viene bene. Sì, quindi in un modo o nell'altro va bene lo stesso. No, cioè se vincono, allora voglio dire, mi piace fare per il contrario. Se vincono poi sono contento a prescindere. Sì. Però se perdono, se perdono, se perdono li prendi per i fondelli e quindi sei contento, certo. Sei contento uguale. È come quelli, sono come quelli, sei come quelli che tifano, che scommettono contro la loro squadra. In modo che se vince la loro squadra sono contenti, se la loro squadra perde beccano dei soldi. Anche questo è un modo un po' democristiano pure questo, Alberto, consentimelo. Enrico Torino: 800 24 00 24, io ho perso il conto, ma mi sembra che qua gufi ce ne siano pochi. Buongiorno signor Gente. Chissà se Enrico è Granata. Pronto? Io sono interista. Ah, interista. Bella lì. Però sono molto sportivo, però non parlo dell'Inter. No. Io volevo solo una mia curiosità sul gol, cioè sulla punizione del Milan. Sì. Mi sembra che il fallo su Balotelli, la palla era distante da Balotelli, mi pare. Può essere visto male le immagini. Non so se lei mi può illustrare. No, non l'ho vista. Perché mi sembra che il passaggio era in orizzontale. Sì. Anziché lui era al limite dell'aria. Sì. Poi dopo che è venuto il gol, su quella punizione. No, non... Enrico, le dico la verità, non l'ho vista. era in macchina, magari... No, no, ma sì, sì, no, sono curiosità, ma io non sono in grado di levargliela. Poi si figura su una punizione in Chievo Milan, eccetera, eccetera. Non è il massimo delle mie passioni, ma non l'ho vista sul serio. Non l'ho vista sul serio, lo confesso, lo ammetto. Ho visto il gol di Montolivo. Sarà un bello fino in fondo tra Juventus, tra Milan e Napoli, che secondo me si giocherà nel confronto diretto che è tra un paio di settimane, ma su una punizione di Verona io non ricordo, mi spiace. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi SMS 349 238 6666. Io non sono juventina ma sono italiana, quindi tifo Juve. Daniela da Viareggio. La Coppa dei Campioni la vince la Juve e non sono juventino. Sandro da Verona. Finalmente Gianni, gufo Juve tutta la vita. E non se può più di tutti questi non juventini, interisti, milanisti che tifano Juventus. Forza, fuori un po' di gufi. Ma adesso andiamo in Inghilterra, dai. Torniamo in Inghilterra. It's obvious that always I said that with all respect, I don't care about what I can read and what I can hear from people for one reason, not because I'm arrogant, because I know who I am, I know which knowledge I got, and I know how I'm capable to do my job properly. So. Questa era di nuovo Paolo Di Canio. Allora, non c'è persona più appropriata per parlarne di Gabriele Marcotti, super corrispondente dall'Inghilterra per Times, Corriere dello Sport, ESPN, Wall Street Journal, Sunday Herald, La Stampa e non so se vogliamo aggiungere degli altri, nonché autore con lo stesso Di Canio qualche anno fa di una sua biografia. Ciao Gabriele. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, ci dicevano polverone vero in Inghilterra, al di là di queste dimissioni di David Miliband dalla vicepresidenza del Sunderland. Certo che Di Canio è un personaggio piuttosto pubblico anche nei suoi gusti, anche politici, quindi non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso, né ci si potrà aspettare qualcosa di diverso ogni volta che il nome Di Canio verrà tirato in ballo. Ma da un lato sono d'accordo, perché insomma il suo pensiero è lì, nero su bianco, sì. Però credo vanno anche dette due cose. Primo, che se Miliband non avesse dato le dimissioni, e lo ricordo, Miliband è l'ex ministro degli esteri laburista, e tra l'altro ha annunciato recentemente che si sarebbe trasferito negli Stati Uniti, e quindi comunque avrebbe lasciato il Sunderland, probabilmente non ci sarebbe stato un polverone del genere. E detto ciò, è vero che comunque Paolo non si è espresso, cioè, per trovare l'ultimo gesto, dichiarazione semipolitica di Paolo, bisogna andare indietro al sì. 2005, quando era la Lazio. No, ma certo, quindi, però Gabriele, certe immagini, sai, le hai viste anche tu, no? su ogni giornale, certe immagini rimangono lì, il suo pensiero rimane lì. E con questo dovrà sempre fare i conti, no? Cioè, se uno si espone da questi punti di vista, non... è chiaro che lo si ricorda, che ogni volta che viene tirato in ballo si vede quel braccio destro teso. Assolutamente, su questo è impossibile non essere d'accordo, però insomma a un certo punto i fatti sono lì. Cioè, ti ho chiesto perché c'è stato questo polverone adesso. Paolo, comunque, sono tutte cose che già si sapevano. Paolo ha lavorato allo Swindon per quasi 2 anni, ha vinto campionato, eccetera. Non è stato, cioè, sicuramente ci sono state alcune proteste all'inizio, però non è stato dato lo stesso risalto. Io credo che appunto senza queste dimissioni di Miliband, senza il fatto che comunque a livello di notizie eccetera non c'era molto altro di cui parlare. Sì. Si è creato questo polverone come se avessero fatto l'outing di Di Canio all'improvviso. Certo. No, certo che Di Canio è andata bene perché ha chiuso con lo Swindon, adesso ha trovato comunque una panchina difficile, però una panchina di Premier League. Ha giurato che salverà il Sunderland. Sì, questo è tipicamente un gesto da Paolo, ma non sono messi molto bene, sono a un punto sopra la zona retrocessione, hanno una squadra che era in caduta libera. A quanto mi risulta comunque insomma il club ha già preventivato un'eventuale retrocessione e quindi insomma credo che comunque vada sarà lì l'anno prossimo. Sì, ti chiedo ancora questo, i tifosi come l'hanno presa? La tifoseria, i fans come hanno preso questo ingresso di Di Canio nel club e al limite questa uscita di Miliband? Sicuramente ce ne sono stati alcuni che sono molto arrabbiati. Sunderland comunque è una città storicamente di sinistra, è una tifoseria di sinistra, anche se in terra in realtà non sono politicizzate le tifoserie. Ci sono state delle proteste abbastanza veementi, però sai, viviamo in tempi di social media e di Twitter eccetera, dove è difficile giudicare cosa pensa veramente la maggior parte dei tifosi. Io credo che lo sapremo tra due settimane, quando il Sunderland giocherà la sua prima partita in casa con Di Canio. Sì. Questa fine settimana, ricordo, sono in casa del Chelsea, lì si vedrà la reazione dei tifosi comunque in trasferta, ma probabilmente in casa sarà dove veramente sapremo cosa pensano. Avremo l'exit poll sull'indice di gradimento di Paolo Di Canio. Esatto. No? È così. Esatto. Grazie Gabriele, buon lavoro. Grazie, saluto a tutti. Grazie Gabriele. Marcotti, dunque, altra notizia di oggi, come sapete, che riguarda invece i nostri lidi, che certo non sono molto più assolati. Allora, lo stadio di Isarenas non c'è più. Sparito. Verrà fatto sparire comunque, perché il Cagliari abbandona questo stadio. In una lettera inviata questa mattina al comune di Quartus Sant'Elena, il club rossoblù disdice la concessione triennale per l'uso dello stadio. I legali della società sono al lavoro per stabilire modi e tempi per smontare la struttura, che potrebbe essere trasferita presto in un altro comune. Già ce li vedo i legali che si mettono lì anche loro a smontare i bulloni per trasferire questo benedetto stadio di Isarenas. Questa è una vicenda più triste, più deprimente, se mi permettete, della stagione, al di là di episodi arbitrali, di falli, di squalifiche, di polemiche. Non c'è niente di più deprimente dal mio punto di vista della vicenda dello stadio del Cagliari, per modi, modalità, tempi, incertezza del diritto, incertezza della competizione sportiva. Ma ricordiamo lo 0-3 della Roma, ricordiamo che ogni venerdì siamo qui a dire, quando il Cagliari gioca in casa, ma allora c'è la gente o non c'è la gente in questo benedetto stadio? Ancora porte chiuse o le porte saranno aperte? Mi sembra una vicenda veramente, non trovo una, come per il fallo di Cambiasso non trovavo un'altra parola che non fosse orrendo, in questo caso non trovo un altro aggettivo che non sia deprimente. Tutti convocati. Siete tutti convocati sempre, 800240024, vi aspetto qui ogni giorno, dal lunedì al venerdì e il sabato con il magazine. Allora, Domenico su Twitter: guffare è un dovere, ma quale ranking? Post scriptum Juventino Doc. Davide Pordenone, buongiorno. Buongiorno signor Carlo. Io sono un tifoso granata da prima di nascere, sono nato 9 mesi dopo l'ultimo scudetto del 76 con Pulici e Graziani. Sì. Davanti. Trovo le pratiche che ultimamente si fanno quando arriva il camion, il bus della Juventus agli stadi, di lanciare pietre, è una cosa scandalosa, sì. Eppure essendo un liberale metterei tutti in galera per queste cose qua. Trovo anche la giornata data a Cambiasso scandalosa, dove andare in Italia. Detto questo, forza Bayern Monaco con tutto me stesso, perché bravo, devono uscire. Bravo, questo mi sembra, sì, questo mi sembra un... Chi è che ulula dietro? Ah no, siamo noi con il gufo. Beh Davide, mi sembra, questo mi sembra un intervento equilibrato. Allora, Granata nato col poster di Pulice Graziani e di quello scudetto, giustamente lei trova schifosa questa pratica dell'intimidazione alla quale il pullman della Juventus è sottoposto ad ogni partita, e mi sembra che venga stigmatizzata anche poco, tutto sommato, dai vari media. Noi lo ricordiamo tutte le volte, ogni volta che accade, purtroppo accade molto spesso, però sul piano sportivo, e questa sera si va in campo, allora si tifano quelli con la maglia rossa. Con sportività, no? Sì, sì, detto questo. Se segnano all'ultimo secondo il fuorigioco con Robben, ripeto, sono sportivo, ma non è che mi metto a piangere, anzi. No, ma ci... Assolutamente. Ma ci sta, questo ci sta, io condivido, comprendo perfettamente il suo pensiero. Ho perso il conto della partita tra gufi e non gufi, pazienza, tanto... Ma è l'importante che vinca il Bayern. L'importante è che sempre il Bayern, eh? Assolutamente. Assolutamente. E se poi la Juventus passa, quelli dopo? Sì, sì, io cioè, sì, mi prostituisco a qualsiasi bandiera, sì. Trovi, d'altra parte, con le soddisfazioni di Granata, l'ultima me la sono presa nel 93, ormai vivo di soddisfazioni regalate dalle altre squadre, allo specchio. Cosa drammatica, purtroppo, però noi Granata per ora siamo così, però alla fine ci si può divertire anche così, alla fine, essendo molto civili, come mi pare proprio lei sia, ci si può divertire anche, sì, così, ma questo è il sale del gioco, il sale del calcio, il sale dello sport, ma dai, non facciamo iperbenisti a tutti i costi, su. Ma ci mancherebbe altro, dai, sempre scorrettezza, assolutamente. Da Mihalovic in poi, senza scorrettezza e senza malizia, ci mancherebbe altro, assolutamente. Grazie, un abbraccio. 800 24 00 24. Mirko Prato, buongiorno, anzi provincia, dica. Sì, buongiorno, sono Mirko Prato, tifosissimo del Milan, e ti volevo chiedere, che differenza vedi tra il fallo di Ibrahimovic in un Milan-Napoli, che gli hanno dato tre giornate di squalifica, al fallo di Cambiasso? Quale? Ho perso il... Ma secondo voi, ma io mi ricordo... Ma se il buffetto, lo schiaffo ad Aronica... Quella roba lì, ma io, ma secondo voi, mi ricordo tutti i falli di questo, di quell'altro? Beh, questo me l'ha suggerito Franco Piantanella dalla redazione, se no io cascavo dal pero. Comunque, ripeto, quel gesto di Ibrahimovic fu quello di fu fuori luogo, perché penalizzò la sua squadra. Il fallo di Cambiasso, onestamente, è stato un fallo sportivamente molto brutto, e secondo me una giornata di squalifica alla fine è davvero poco. Insomma, per un fallo così è davvero poco. Poi possiamo trovare tutte le giustificazioni che vogliamo, però per un fallo di questo tipo una giornata di squalifica a me pare un regalone. Ma poi, detto questo, non lo so, il giudice sportivo e l'arbitro avranno ovviamente tenuto conto del fatto che Cambiasso si è reso conto, non è un giocatore violento, perché non è mai stato un giocatore violento, si è reso conto per primo della stupidaggine che ha fatto, però questo cosa vuol dire? Cioè, rimane quel fallo che siccome andava punito in maniera un po' più grave della semplice giornata di squalifica. Maurizio, Napoli, buongiorno. Salve, buonasera dottor Genta, intanto complimenti per la trasmissione. Allora, io chiamo da Napoli, però sono di Palermo, tifosissimo bianconero. Sì. Allora, chiamavo in merito al fatto di questi finti non gufi, perché questi che dicono che questa sera non guferanno sono tutti dei falsi. Ah, sono tutti dei bugiardoni. Esatto. Domani mattina si vedrà realmente queste persone cosa hanno fatto questa sera. Lo dico perché mi vengo a Napoli, guardi. Come facciamo a vederli? Me ne accorgerò io vedendo i miei qua a Napoli, perché vivendo a Napoli, e sì, guardi che fare il tifoso della Juve a Napoli è un mestiere molto, molto difficile. È un mestiere complicato, me ne rendo conto. Sopportare i tifosi del Napoli è una cosa assurda, perché comunque qualsiasi cosa succede, la colpa è sempre della Juve. Se piove è colpa della Juve. Se piove è colpa della Juve, o alternativamente del governo, dipende da chi c'è in carica. In questo momento, non avendo un governo, è colpa della Juve in ogni caso. Con noi. Comunque, volevo semplicemente dire questo. Ecco. Quindi lei questa sera mette la bandiera del Bayern fuori dal balcone? Assolutamente no. È già tutto pronto, pure pronta la bambina col cappellino della Juve. Siamo pronti in casa. Penso a festeggiare qualcosa di bello, perché sono 7 anni che aspettiamo questo momento, perché Calciopoli ci ha distrutto, ma noi ci siamo più forti di prima, e sicuramente questo sarà un nuovo inizio per tutti noi tifosi della Juve che stiamo aspettando, ripeto, questa partita. Sono 7 anni, ce la goderemo dal primo all'ultimo minuto. Attenzione a non caricarla di troppe attese, di troppi significati, perché perché a mio parere la Juventus, è una gran squadra, forse non ancora pronta per sfide di questo tipo, forse manca ancora qualcosa. Diciamo che la Juventus in questa partita, in questo doppio confronto, è sfavorita, è l'underdog, parte da outsider. Sì, se poi sì, passa probabile siamo pure, ripeto, favoriti, però ma lei fa benissimo, ma ripeto, Maurizio, ci deve credere fino in fondo, fino all'ultimo minuto della partita di ritorno. Stasera c'è lo scritto, tra una settimana c'è l'orale, e per la Juventus è il vero esame della internazionale, della sua dimensione internazionale, quindi farà benissimo a godersela fino in fondo e a crederci fino in fondo. Resta il fatto che il Bayern, secondo me, è più forte, è una delle grandi favorite per la vittoria della Champions League. Adesso a questo punto, secondo me, ne sono rimaste tre, le due spagnole e appunto il Bayern di Monaco. Io faccio il tifo per il Real, ovviamente Juventus a parte, tra le tre favorite. Io faccio il tifo per il Real, però questi sono fatti miei, di cui avremo modo di discutere, credo. Salvatore Napoli, buonasera, buongiorno. Buongiorno signor Genta, grazie per la convocazione. Ma sempre. Allora, io volevo dire, per quanto riguarda stasera, io non gufo assolutamente, no, ma per un semplice fatto, perché sono juventino, quindi mancherebbe altro. Non potrei assolutamente, sono d'accordo con gli amici di prima, sicuramente c'è un po' troppo perbenismo, perché io sfido qualsiasi juventino a dire che è stato contento per il triplete dell'Inter e per i trionfi del Milan in campo internazionale. È giusto che ci sia il gufare, l'importante è gufare anche in maniera sportiva. Ma è positivo, sì, ma, no, ma non c'è dubbio. E poi un'altra cosa, le gufate dire, si danno e si prendono e si accettano, soprattutto, così come gli sfottò. Esatto, ma sì, ci sta. Io, essendo napoletano, tifoso juventino, ne accetto tantissime, quindi ne so qualcosa. E un'altra cosa volevo dire, sicuramente il Bayern è la squadra peggiore che ci poteva capitare dopo il Barcellona. Era meglio addirittura, secondo me, il Real Madrid. Il Bayern è troppo arrabbiato dell'anno scorso, e quindi ci aggrappiamo solamente ai corsi storici, sì, per quanto riguarda il Bayern con la Germania. Salvatore, no, beh, quelle sono cabala, che stasera scenderà in campo, mica tanto. Io sono dell'idea di Buffon, la penso come Buffon. La sera stessa in cui venne sigillato il passaggio del turno contro il Celtic, Buffon disse: quella che preferisco evitare in assoluto è il Real Madrid. E continuo a pensarla come Buffon, anche se il Bayern Monaco, ripete, è una grande squadra. Fammi risentire il gufo, Roberto Scaltritti. Allora, Francesco su Twitter ci manda una foto di un gufetto, andate su Tutti i Convocati e fatevi quattro risate, questo me lo scrivono dalla regia. Chiudiamo con Marco da Bergamo, poi naturalmente torniamo domani. Marco? Oh, grazie per la chiusura. De niente, ancora. De nada. Niente, io sono Juventino Doc, io e mio figlio saremo lì in prima fila. Senta, con ma non me ne ha parlato nessuno, ma della manina di Sagan cosa ne pensa? Ah, niente, niente. Per non ne pensa niente? Non dico niente, io non dico niente. Ma io come? Dico ma una non, cosa di, che non dice sono, niente? Io sono un ultra gufo, io, assolutamente. Ultra. Nel senso che ho goduto come un riccio quando è uscito l'Inter, ho goduto ancora di più col Milan, dove doveva passare 2-0 qui. No, non posso immaginare che ci sia un interista, un milanista che possa non guffare contro la Juve, assolutamente. No. Anzi, con l'Inter ancora di più che col Milan. Sì. Per il semplice fatto che stava facendo un'impresa praticamente epica, no? Perché dal 3-0 là era già 3-0, quindi era in parità, e quindi poteva fare veramente un colpo fantastico. C'erano solo 15.000 tifosi a guardare questa impresa storica, per cui era doppia gufata ancora contro di loro. Sarei andato avanti alla morte o a aiutarli, per cui non sarebbe cambiato. Senta, io invece la saluto con questa notizia che mi fa venire le lacrime agli occhi. Allora, premio di 25.000 euro a ogni giocatore del Galatasaray se elimineranno il Real Madrid. Beh, 25.000 zucche, mica male, eh? Andiamo a trovare Drogba anche noi, magari subito o domani. No, domani siamo qui, dalle 2 alle 3. Tutti convocati. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. E vediamo domani se avranno ragione i gufi o i non gufi. Io comunque vi aspetto al varco. Perché mazzo è, gli editori sono contro il Napoli, sono razzisti contro il Napoli. Io zappavo la terra.